in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Come potrete immaginare, oggi i quotidiani a cui stiamo per dare un'occhiata sono tutti dedicati all'elezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. In realtà l'elezione è arrivata ieri nel primissimo pomeriggio, insomma quasi all'ora di pranzo, e poi per tutto il pomeriggio ci sono state maratone televisive, anche radiofoniche, quindi sicuramente saprete già molto di questa elezione. Però se volete ulteriormente approfondire, i giornali sono zeppi di cronaca e di commenti. Corriere della Sera apre con questo titolo: Mattarella che presidente sarà? La prima pagina è quasi tutta dedicata all'elezione appunto del presidente. Vi segnalo il commento di uno dei vice direttori del Corriere della Sera, Luciano Fontana: non dica grazie a nessuno. E poi un commento di Sabino Cassese, che è un costituzionalista, che cerca appunto di ipotizzare quali saranno i riflessi dell'elezione di Mattarella sulla riforma costituzionale che è all'esame del Parlamento. Il regista migliore per seguire la legge elettorale, questo è il titolo. Vi segnalo, perché ho fatto questo calcolo per ogni giornale, su 56 pagine il Corriere della Sera ne dedica 14 all'elezione di Mattarella, quindi appunto potete immaginare quanti commenti, interviste, approfondimenti, retroscena. La Repubblica, l'Italia di Mattarella, anche in questo caso un titolo a tutta pagina. Qui i commenti sono, vabbè, quello di Scalfari, che ogni domenica si esercita, fondatore di Repubblica, si esercita sulla prima pagina di Repubblica, e poi all'interno commenta i fatti della settimana. Oggi si dedica unicamente all'elezione di Mattarella. Il titolo è "Bene Renzi e bene il PD, il presidente è quello giusto", molto originale devo dire. E poi invece il commento di Ezio Mauro, direttore di Repubblica: un galantuomo al colle e la via dritta della politica. Tutta la prima pagina della Repubblica richiama gli articoli interni, che in questo caso occupano 21 pagine su 68 totali. Il Sole 24 Ore ha anche in questo caso titolo a tutta pagina: Mattarella presidente, ampia maggioranza, perché sapete che questo è veramente un po', se vogliamo, la sorpresa di ieri. La maggioranza, il minimo dei voti che avrebbe avuto bisogno Mattarella al quarto scrutinio era 505, cioè la metà più uno, è stato eletto con 655 voti, quindi appunto un'ampia maggioranza. Anche in questo caso molti commenti. Vi segnalo in particolare quello del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano: la coscienza è la regola. E qui c'è un tema toccato non dagli altri, diciamo, commenti di direttori, che riguarda strettamente l'economia, perché siamo appunto al Sole 24 Ore. Allora vi leggo l'ultima parte dell'editoriale di Roberto Napoletano. L'interrogativo principale dei mercati di questi giorni non ha riguardato le scatole cinesi della politica italiana, ma piuttosto la capacità dell'attuale premier di affrontare e concludere in tempi certi il ricambio della presidenza della Repubblica, tenendo unito il suo partito e dimostrando di avere la forza e la compattezza per procedere sulla strada delle riforme, cambiando in profondità e non in superficie, come troppo spesso è avvenuto, entrando nei problemi e sviscerandoli con metodo analitico e pragmatico, misurato alla prova dei fatti. Su questi terreni, dalla semplificazione burocratico-normativa alla delega fiscale, fino al lavoro e alla giustizia, Mattarella può dare molto. Ha un capitale personale di affidabilità da spendere per contribuire a mettere a posto la nostra scassatissima macchina pubblica. Mette insieme il rigore sturziano, la mediazione morotea e l'attenzione ai poveri di La Pira. Sui terreni dell'economia e delle relazioni internazionali la bandiera sventolerà tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia, ma l'esperienza politica di lungo corso e la prova positiva come ministro della difesa nella vicenda del Kosovo ci spingono ad azzardare che all'occorrenza le sorprese potrebbero non mancare. In questo caso il Sole 24 Ore dedica 7 pagine su 22, poi c'è anche il domenicale, ma calcoliamo solo le pagine del dorso principale all'elezione di Mattarella, quindi anche in questo caso molti gli approfondimenti. La Stampa: penso alle difficoltà degli italiani, questo è il virgolettato tratto da in realtà una frase che è poco più lunga, che è stata l'unico commento a caldo del presidente ieri, e la scelta, la Stampa l'ha scelta per titolare appunto tutta la parte di la prima pagina, e poi per richiamare tutta una serie anche in questo caso di commenti. Oggi sulla Stampa le pagine dedicate alle elezioni di Mattarella sono 11 su 48. Il commento in prima pagina è del direttore della Stampa, Mario Calabresi: fondamentale ritorno alla normalità. Libero, perché sicuramente, visto che, come avrete sicuramente sentito dai commenti di ieri, il grande sconfitto di questa elezione pare essere proprio Berlusconi, e allora era interessante, io ero curiosa di vedere i titoli di Libero del giornale. Libero titola Amen, Mattarella è stato eletto, il centrodestra si è suicidato, Berlusconi e Alfano si sono infilati nella trappola di Renzi senza lo straccio di un piano B e ne sono usciti perdendo la faccia e spaccando i loro partiti. La sola consolazione è che peggio di così non si può fare, bisogna rifondare sulle macerie e sperare che il presidente triste dica qualche no al premier. E poi l'editoriale di Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Il bestiario di Giampaolo Pansa, come ogni domenica su Libero, si intitola A me piace, sul colle farà bene. E poi c'è un, secondo me, molto discutibile pezzo di Mario Giordano che punta invece sulla supposta tristezza di Mattarella. Il titolo del pezzo è 7 anni di mestizia e incenso stampato. È un pezzo che poi trovate a pagina 3, inizia in pagina 1. Vi segnalo tra l'altro che Libero, che normalmente non è in edicola lunedì, sarà in edicola domani con un'edizione straordinaria. Stessa cosa per il Sole 24 Ore, che come sapete è sempre in edicola lunedì ma con un'edizione che viene chiusa al venerdì sera, e per oggi invece i nostri colleghi lavoreranno, i miei colleghi lavoreranno oggi che è domenica, e domani l'edizione del Sole 24 Ore sarà appunto in gran parte fresca, come si dice. Il giornale ammucchiata con feriti, Berlusconi non si arrende, sapevo, il dialogo resta. Due i commenti, uno di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, che inizia con onore al nuovo presidente, e l'altro di Piero Stellino, che è stato fino a poco tempo fa editorialista del Corriere della Sera e che con questo articolo, come segnala il giornale, inizia la sua collaborazione con il giornale. Anche in questo caso, pezzo secondo me molto inutilmente critico per le ragioni secondo me sbagliate, ma ve lo segnalo, quindi chi ha voglia assolutamente lo legga e si faccia un'opinione. Vi leggo le prime pagine, le prime righe di questo editoriale di Piero Stellino. E così quel grande innovatore che pretende di essere a parole il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha riesumato come presidente della Repubblica un vecchio democristiano di sinistra, quanto di più illiberale, testuale, abbiano prodotto da noi la cultura politica egemone e il sistema politico. Non basta ancora. L'elezione di Sergio Mattarella rivela perciò alcune anomalie. È stato detto a questo proposito che Renzi lo avrebbe proposto e imposto perché una volta al Quirinale Mattarella non gli farà ombra, il che non è propriamente un complimento per il neopresidente ed è allo stesso tempo un'inquietante indicazione delle ambizioni autoritarie del ragazzotto fiorentino. Qui viene il meglio, a sua volta il sistema informativo ha celebrato Mattarella prima ancora che fosse eletto come persona di poche parole, uomo discreto e perciò spesso affidabile. Personalmente ho sempre pensato che chi parla poco in realtà non direbbe nulla di rilevante, come credono molti se parlasse, e probabilmente è solo uno che non ha nulla da dire. Ah, beh, se lo dice Piero Stellino. E questo poi continua a pagina 3. Vi segnalo anche, interessante, perché sapete che tra le persone che hanno ottenuto dei voti ieri, oltre al candidato del Movimento 5 Stelle Imposimato, c'è anche Vittorio Feltri, che è l'editorialista del giornale, e quindi vi segnalo il suo articolo che inizia in prima pagina e poi continua a pagina 11, cosa significano quei voti per me. Il conteggio che ho fatto, in questo caso il giornale dedica 12 pagine su 32 a Mattarella, il Fatto Quotidiano ne dedica 11 su 24, quindi meno forse di altri, ma in percentuale forse ancora di più. Anche qui un editoriale durissimo di Marco Travaglio, Balena Bianca e Pecora Nera, dedicato soprattutto a tutti i giornalisti che non sono lui, quindi tutti tranne lui, tranne forse qualcun altro del Foglio, che sarebbero tutti già pronti a usare la lingua, testuale dice Marco Travaglio, anzi l'hanno già usata per incensare il neo presidente. Marco Travaglio accusa, citando come sempre fa, tutti i giornali di aver già deizzato praticamente questo nuovo presidente, e preconizza che continueremo tutti a farlo, tranne naturalmente il lodevole lavoro del Fatto Quotidiano. Il titolo però è Vince il Matta Renzi, e poi le schede firmate banda per banda, perché come forse sapete se avete seguito l'elezione ieri in diretta, Sì, Mattarella ha ottenuto 655 voti, ma con sulle schede il nome era indicato in modi diversi, e poi vedremo appunto quali sono questi modi. Secondo alcuni era un metodo per identificare i vari gruppi che avevano votato Mattarella. L'altro editoriale è di Antonio Padellaro, che è il direttore del Fatto Quotidiano, Il Piccolo Cesare, naturalmente dedicato a Matteo Renzi. Il Manifesto, il titolo è C'è Stato con la S grande, e la foto è di Mattarella ieri, che subito dopo aver appreso di essere stato eletto Presidente della Repubblica è andato a rendere omaggio alle Fosse Ardeatine. Qui i commenti sono entrambi positivissimi, le pagine dedicate a Mattarella sono 4 su 8, uno del direttore del Manifesto Norma Rangeri, oltre i 1000 c'è Il Paese, i 1000 naturalmente sono i grandi elettori, e poi un articolo di Giuseppe Di Lello, Antimafia, il faro ideale del Presidente. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, tutte dedicate naturalmente all'elezione di Mattarella, e quindi il Messaggero, che come La Stampa ha scelto il virgolettato del brevissimo commento di Mattarella appena saputo dell'elezione: penso alle difficoltà degli italiani. Il commento è di Virman Cusenza, direttore del Messaggero. Il Presidente, la scena vuota dell'opposizione. Vi segnalo un'intervista a Raffaele Fitto, sapete, esponente di Forza Italia, nelle ultime settimane molto critico con Berlusconi e con in generale l'atteggiamento del partito all'avvicinarsi di questa importante elezione. E qui c'è, secondo lui, perché sapete che è stato fatto il calcolo tra quante sono state le schede bianche, ne mancano 38 rispetto a tutti i grandi elettori di Forza Italia. Allora, cosa hanno votato quei 38 elettori di Forza Italia nel segreto dell'urna? Si ipotizza che abbiano votato per Mattarella e che sia stato Fitto a istigarli. Fitto respinge le accuse, addirittura dice che il fatto di accusarlo è un complotto contro di lui, quindi siamo al macchiavellismo puro. Comunque nessuno lo saprà mai per davvero, perché un'urna segreta è appunto un'urna segreta di chi sono quelle schede che non sono state bianche, ma poi chissà se veramente sono andate a Mattarella o a uno degli altri candidati che hanno raccolto voti. Il mio contattore personale, il Messaggero, 13 pagine su 40 dedicate all'elezione. Avvenire titola Il Presidente dei Cittadini, anche in questo caso quindi un riferimento, anche se non c'è il virgolettato che poi è nel sommario, penso alle difficoltà e speranze della gente, e appunto al primo commento a caldo del Presidente. La fotonotizia però è dedicata al Papa, perché oggi è la giornata nazionale della terra. Ieri il Papa ha ricevuto i coltivatori cattolici, hanno parlato appunto delle difficoltà dell'agricoltura, degli agricoltori, ma anche dell'importanza dell'agricoltura e del rapporto con i frutti della terra. In questo caso l'Avvenire sobriamente dedica solo tra virgolette 9 pagine su 32 all'elezione di Mattarella. Finiamo con la Gazzetta dello Sport, che dedica 2 pagine, che comunque sono tante, 2 su 44 alle elezioni di Mattarella, ma la copertina naturalmente è dedicata a Inter e Milan, che giocheranno oggi. Europa mai più, quindi Sassuolo-Inter per quanto riguarda l'Inter di Mancini, la sveglia di Mancini, è ora di usare il cervello. E poi Milan-Parma, Inzaghi, spiega la Gazzetta, giocherà col 4-4-2 con Destro, il nuovo acquisto al debutto. Ma veniamo un po' alle pagine interne. Anche in questo caso ho fatto una selezione così molto sommaria degli articoli che riguardano l'elezione di Mattarella. Come vi ho detto, sono pagine, pagine e pagine dedicate al nuovo presidente. Per esempio il Corriere della Sera, pagina 13, era Felice Cavallaro, ci racconta un po' la vita di Mattarella. Leggite in gruppo, il gelo con Sciascia, gli anni della primavera di Palermo. Ci sono foto storiche, tra cui anche quella del padre di Sergio Mattarella, che era a sua volta un esponente della Democrazia Cristiana, mentre vota nel 1958. E poi c'è un'intervista a un amico di Mattarella, Barucci, che dice: Mattarella è un uomo solido, capisce gli altri e saprà ascoltare. Piero Barucci, appunto un economista fiorentino che però è stato ministro del tesoro, tra l'altro nei governi Amato e Ciampi, ed è amico da 40 anni del neo presidente della Repubblica. Dalla Repubblica invece un'intervista a Walter Veltroni, che il cui nome ricorderete era anche circolato come uno dei possibili candidati del PD, poi era stato subito scartato perché troppo caratterizzato proprio con appunto il Partito Democratico. E il virgolettato scelto dalla Repubblica per l'intervista fatta da Goffredo De Marchis è: dal premier scelta perfetta, ora avanti con le riforme, sbaglia chi nel PD vuole frenare. Dalla Stampa, una retroscena di Mattia Feltri, il doppio gioco di Silvio, Sergio, i voti li porto io, nel mirino le poche schede bianche, i trattativisti, Verdina e Letta, perché sapete che è venuta un po' una delle, come dicevamo ieri, da una parte quello che viene definito il frondista Raffaele Fitto, sempre al centro delle polemiche interne a Forza Italia, perché è considerato un personaggio che vuole spaccare il partito, anche se lui nega, e poi le accuse a Verdini e Letta, Denis Verdini che è il capogruppo al Senato di Forza Italia, Gianni Letta che è un po' l'eminenza grigia di Forza Italia, di Berlusconi, lo è stato per tanti anni, si sapeva che soprattutto loro due hanno trattato con Renzi nelle ultime settimane sulla questione del Presidente della Repubblica e su tante altre, e siccome, come abbiamo visto, molti hanno letto questa posizione di Forza Italia ieri con le schede bianche come una sconfitta, e le accuse quindi direttamente appunto ai trattativisti Verdini e Letta. Poi vi segnalo nella stessa pagina, pagina 6, c'è la notizia della presentazione di Italia Unica, l'ennesima in realtà presentazione di Italia Unica, che è il partito fondato da Corrado Passera, che è stato ministro dello sviluppo economico nel governo Monti, nonché è stato per tanto tempo prima di diventare ministro amministratore delegato di Banca Intesa, la più grande banca italiana insieme a Unicredit, e ieri davanti a 2500 delegati, e potete immaginare, insomma, appunto tutti i riflettori erano puntati altrove, però per una serie di combinazioni più o meno fortunate o sfortunate, ieri era il giorno scelto per appunto la presentazione ufficiale di questo partito, davanti a 2500 delegati, l'alternativa ai populismi. In Passera vuole addirittura, così ha dichiarato, costruire il più grande partito. Good luck, gli diciamo. Dalla Stampa, sempre un altro articolo, vi segnalo a pagina 7, crisi aperta dentro il nuovo centrodestra. Questo una notizia che ho visto solo qui, appunto, ipotesi Lupi, Maurizio Lupi per la segreteria. Sapete che attualmente il segretario è Angelino Alfano, Maurizio Lupi è l'attuale ministro delle infrastrutture. Siccome la portavoce Barbara Saltamartini ieri ha abbandonato il partito insieme a Maurizio Sacconi, ci sono dei movimenti, potrebbero esserci dei cambiamenti appunto all'interno del nuovo centrodestra. E poi c'è una breve intervista a Ciriaco De Mita, che è stato segretario della Democrazia Cristiana quando anche Mattarella ne era un esponente di punta, infatti c'è una foto degli anni 80 dei due insieme. De Mita dice: Mattarella un cattolico vero, altro che Scalfaro, paragone assurdo. Vi dicevo, il Sole 24 Ore, che ha molto puntato sugli aspetti economici, ma anche proprio di tutte quelle riforme economiche in senso largo, quindi anche della burocrazia, delle norme in generale, che dovranno essere presto esaminate dal Presidente della Repubblica. E allora Davide Colombo e Marco Rogari ce le riepilogano un po' a pagina 5, dal fisco al Jobs Act, i primi dossier al colle. Dal Messaggero vi segnalo un colloquio con Giorgio Napolitano, quindi l'ex presidente della Repubblica, che era stato eletto al quarto scrutinio nel con 543 voti nel 2006 la prima volta, e poi era stato rieletto al sesto scrutinio nel 2013 con 738 voti. Il colloquio di Dino Bertoloni Meli appunto cerca di capire un po' cosa pensa Napolitano del nuovo presidente, e naturalmente ne pensa bene: riforma grazie a CSM, gli passerò io i dossier, tornerò al colle facendo uno strappo al protocollo per un colloquio riservato, Sergio sarà un riferimento saldo con politiche di riforma coerenti con la carta. Dal Libero vi segnalo prosegue dalla prima pagina in realtà l'editoriale di Franco Bechis, vice direttore di Libero: ancora una volta gli ex comunisti si sono fatti fregare dal solito ex DC, la Finocchiaro, D'Alema e pure Bersani masticano amaro, secondo l'analisi di Bechis, non toccano palla, ingoiano un altro democristiano, ma se uno di loro fosse stato in gara sarebbe stato impallinato dalle correnti altrui. Come dicevamo appunto, tra l'altro, oltre a Anna Finocchiaro, Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani, era stato fatto anche il nome di Walter Veltroni. Poi vi segnalo il graffio su Passera, che vi dicevo ieri con un po' scarso tempismo ha presentato il suo partito. Passera unico per tempismo, scrive Libero. Corrado Passera ieri è stato eletto presidente di Italia Unica, partito da lui creato dopo l'addio polemico a Monti, un'assemblea fondativa all'insegna della sobrietà. Flash e telecamere erano impegnati altrove, dove si leggeva soltanto il presidente della Repubblica. L'anno scorso presentò Italia Unica il giorno dell'insediamento a Palazzo Chigi di Renzi. Il tempismo è davvero il suo forte. Vi segnalavo, vi dicevo che in realtà sì, Sergio Mattarella ha ottenuto 665 voti, però come sa chi ha assistito ieri in diretta allo spoglio, con delle indicazioni leggermente diverse. E allora a pagina 3 il giornale ci ricorda quali sono state questi diversi modi e c'era Mattarella, Sergio Mattarella, Mattarella S. punto, Mattarella Sergio, Onorevole Mattarella, Onorevole Sergio Mattarella, S. punto Mattarella, Sergio Onorevole Mattarella, Professor Sergio Mattarella, Onorevole Professor Sergio Mattarella, Mattarella Onorevole Sergio. E secondo il giornale, lo scrive poi sotto ciascuno di questi modi di indicare Mattarella, secondo il giornale ogni modo ha un referente, un gruppo referente. Per esempio Mattarella, che ha, con questa indicazione sono state messe nell'urna 343 schede, sarebbe quello scelto da PD alla Camera, Scelta Civica e altri. Poi vi leggo solo questo perché è un gioco, mi sembra, più che, perché naturalmente sono ipotesi. Sergio Mattarella sarebbe la dizione scelta dal PD al Senato, da Scelta Civica e altri, e così avanti. Vi segnalo, perché tutto sommato, scorrendo i giornali, non sono molti i commenti sull'atteggiamento di Matteo Salvini, leader della Lega, che ha avuto delle parole durissime ieri, tipo il centrodestra è morto. Ecco, alla pagina 10 del giornale trovate un'intervista, il futuro possiamo parlarne con Berlusconi, l'intervista di Stefano Filippi. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto tutte le prime pagine dei giornali dedicate all'elezione di Sergio Mattarella e poi qualcuno dei numerosissimi articoli nelle pagine interne, perché diciamo così spannometricamente circa un terzo di ogni quotidiano di oggi è dedicato appunto all'elezione di Mattarella. Però c'è anche altro, per fortuna, e per esempio dal Corriere della Sera c'è un'intervista di Davide Casati a Naomi Klein, forse ne conoscete il nome, insomma del 2000, il suo libro più famoso del 2000, il famoso No Logo, che divenne un po' il manifesto dei movimenti no global. Nel frattempo Naomi Klein, che oggi ha 44 anni, ne ha scritti molti altri di libri, l'ultimo uscito è La rivoluzione ci salverà, e qui in questa intervista Naomi Klein fa molta autocritica e dice: siamo stati sconfitti anche per non aver detto mai di sì. L'autrice di No Logo parla del fallimento del movimento, però aggiunge anche: non siamo morti e continua a essere giusto denunciare le disuguaglianze, stiamo però imparando a proporre delle alternative. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo un articolo di Nicola Lombardozzi, corrispondente dall'Ucraina, perché uno dei tanti avvenimenti appunto nel resto del mondo di questi giorni è il rinfocolarsi della guerra civile in Ucraina, con attentati ma anche veri e propri scontri, in particolare tra le truppe ufficiali dell'Ucraina e le truppe filorusse. E Lombardozzi ci racconta per esempio di questa battaglia a Debaltseve con 28 morti tra soldati e civili. Angela Merkel ieri è tornata a chiedere una tregua, però è anche vero che c'è stato un vertice dei ministri degli esteri dell'Unione Europea che è sostanzialmente finito con un nulla di fatto. Mosca continua, secondo le accuse di Kiev, a non rispettare gli accordi di Minsk siglati prima di Natale, e questa è la conseguenza, cioè che non si vede veramente una soluzione a questa crisi, che avviene purtroppo appunto spesso lontano dai riflettori. Vi segnalo poi un articolo di Enrico Franceschini, sempre dalla Repubblica, pagina 26, trovate però questa notizia anche su altri giornali. Benedict Cumberbatch, che è il protagonista, oltre che di Sherlock Holmes alla televisione, anche del bel film su Alan Turing di cui abbiamo parlato quando è uscito, di Imitation Game, che è appunto un film biografico sulla figura di questo grandissimo matematico, che però fu anche perseguitato per essere gay, perché solo nel 1967, pensate, in Gran Bretagna, non è più stato illegale né perseguibile il fatto di essere apertamente omosessuali. E allora Benedict Cumberbatch e altri attori hanno fatto un appello alla regina: non solo Turing, è ora di riabilitare 50.000 gay inglesi, perché Turing è stato in effetti riabilitato, ma soltanto 2 o 3 anni fa, perché appunto, tra l'altro, una delle cose che gli è successa nel dopoguerra è che ha perso il suo posto di insegnante a Cambridge proprio per l'accusa di essere omosessuale. Dalla pagina della Repubblica anche un bel approfondimento di Laura Serloni su una nuova app che viene definita l'Uber della spesa. Un clic sul cellulare arriva a casa in un'ora, è un modo appunto per riuscire ad avere la spesa a casa nel più breve tempo possibile, perché grazie a questa applicazione si capisce chi ve la può portare a casa, perché è più vicino, perché è disponibile. Il nome è Supermercato 24. Dalla Stampa, ma anche in questo caso La Stampa non è l'unico giornale a parlarne, un aggiornamento invece sulla Grecia, sul post elezioni. Domenica scorsa si è votato in Grecia e ora sono in corso le trattative tra Tsipras, leader di sinistra di Siriza, il partito che ha vinto le elezioni e che ora vuole, come ha promesso in campagna elettorale, rinegoziare gli accordi con la Troica, cioè Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea. E però ieri la Merkel ha ribadito i debiti vanno pagati. Ora Tsipras, tra l'altro, a sua volta ha detto sì, non abbiamo mai detto che non li pagheremo, però dobbiamo trovare un modo diverso. Abbiamo pochi minuti, ma volevo segnalarvi i supplementi culturali, a cominciare naturalmente dalla Domenica del Sole 24 Ore. La copertina è dedicata a un nuovo libro su una delle opere più famose di Aristotele, La Retorica, che è appena uscito per Carocci, e lo recensisce Armando Massarenti, che oltre ad essere laureato in filosofia della scienza, quindi il filosofo lui stesso, è il responsabile del Domenicale. Vi segnalo poi il breviario di Gianfranco Ravasi, oggi si chiama Tradizione. La citazione è: la tradizione è la salvaguardia del fuoco, non l'adorazione delle ceneri. Trovo bellissima questa definizione di una realtà che è maneggiata spesso in modo ambiguo. C'è infatti la reazione estrema di chi vuole scrollarsi di dosso la tradizione col suo passato, considerandola come un retaggio polveroso e asfittico, ma c'è anche chi l'assume come un feticcio da portare in processione per esorcizzare le strade impure della modernità. È stato il grande Gustav Mahler a coniare e a incarnare nella sua musica il vero spirito della tradizione. Essa non è idolatria di ceneri di un passato estinto, ma è l'opera di riattivazione costante delle braccia ardenti e delle fiamme di una secolare ricerca e conquista. E anche Victor Hugo, con un'immagine vegetale, affermava che la tradizione è fatta di radici e tronco che a ogni primavera devono generare rami, germogli, fiori e frutti sempre nuovi. E tra l'altro una delle cose che ha detto proprio ieri Mattarella è: voglio appunto unire passato e futuro, quindi tradizione e futuro. Sempre dal Domenicale, che poi vedrete anche in più approfonditamente con Alessio Maurizio in Si può fare e lo stesso Armando Massarenti, vi segnalo un brano tratto dal libro, dalla prefazione a un libro fotografico di Ferdinando Scianna, Leggere un atto di grande amore. Il fotografo ha costruito un libro di foto che celebrano l'atto della lettura. E appunto qui c'è, scusate, non parte della prefazione ma parte della postfazione. Dalle pagine di Arte un articolo di Ada Masoero che spiega quali sono tutte le mostre che ci saranno quest'anno per celebrare Alberto Burri, tutto un anno in onore di Alberto Burri. Da Città di Castello, dove era nato, fino al Guggenheim di New York, si moltiplicano le iniziative per celebrare il geniale Alberto, il geniale artista umbro. La copertina di Macro, il supplemento culturale del Messaggero, dedicato a Umberto Veronesi e alla sua iniziativa Gold for Kids, il prof e Capitan Uncino inteso un po' come Francesco Facchinetti, cantante presentatore, perché Veronesi ha creato questo progetto per sostenere gli studi e le terapie di bambini e adolescenti malati e per diffondere l'iniziativa ha chiesto aiuto a Facchinetti e alla sua squadra di YouTuber e bloggers. Dalla Lettura, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, tantissimi gli articoli, vi segnalo in particolare uno di Adriano Favole e Stefano Allovio a pagina 5, Razza, un'invenzione nefasta, senza valore scientifico, aboliamo il termine. Questa è la proposta degli antropologi, eliminare la parola, per esempio, dal testo della Costituzione, perché alimenta ancora oggi suggestioni pericolose. E lo spunto un po' di questo articolo è che il 23 gennaio gli antropologi biologici dell'Istituto Italiano di Antropologia e molti altri hanno chiesto appunto l'abolizione del termine razza dalla Costituzione. La copertina invece della Domenica della Repubblica è dedicata a un geniale fumettista americano, Robert Crumb. Non posso fare a meno di ridere, dagli hippies a Charlie Hebdo, un'intervista appunto a Robert Crumb, che insomma, chi lo conosce sa, alcuni suoi fumetti sono molto famosi, per esempio ce n'è uno che ha come protagonista un gatto, Fritz il gatto, però parla anche, perché lui ha fatto anche lui stesso molta satira, quindi parla appunto anche della questione Charlie Hebdo. Tra l'altro sapete che è di ieri la notizia che Charlie Hebdo, dopo il numero eccezionale andato in edicola che ha venduto circa 7 milioni di copie in tutto il mondo, dopo la strage adesso sospenderà le pubblicazioni, una pausa di riflessione, ma anche per forse finalmente, dopo appunto l'ubriacatura di popolarità anche seguita agli attentati, alla diffusione del numero speciale, forse è veramente il momento per tutti quelli che ci lavorano di riflettere, anche di elaborare il loro tremendo lutto. Vi segnalo ultimissima cosa invece la copertina di Alias, il supplemento del manifesto, che è dedicato a una nuova edizione delle lettere di Oscar Wilde, pubblicate dal Saggiatore, con tutta una serie di piccole grandi rivelazioni sul grande poeta, saggista e romanziere inglese. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, che mi ha tenuto nei tempi come sempre. Una buona domenica a tutti. Oggi veramente, o sul Quirinale o su tanti altri argomenti, se comprate uno o più quotidiani avete tanto da leggere. Una buona domenica da Giulia Crivelli.